Innanzitutto non vorrei promettere, proprio come è stato dato un po' desolato perché essendo stato chiamato dal supplente per il proprio maestro, questo è ancora peggio. Sia chiaro che non posso sostituire nessuno. Poi l'altro problema è subito due settimane di tempo, il tema. In primo momento diceva potrei parlare dei diritti sociali, però abbiamo già sentito due relazioni sul tema e poi ho scelto quello del crocevisto, un tema di attualità, ma ho scoperto che anche qui ovviamente c'è già un intervento che poi è appunto anche di leggere per fortuna su un piano diverso, ma insomma questo Denning credo si occupa anche già dello stesso tema. Prendo lo spunto e con questo qui cerco di dare un taglio diverso forse alle altre, agli altri contributi più concreto, perché prendo lo spunto dalla stessa sentenza del Ufficio Fasso Sizzo Crocifisso, un taglio un po' più giuridico concreto, ma spero che questo serva non solo ai giuristi ma soprattutto agli storici, perché un capitolo di storia contemporanea credo che si sta scrivendo qui. Questa sentenza, che ha appassionato sicuramente più la i politisti, come dicono i francesi, la classe politica che non gli addetti ai lavori della giustizia costituzionale, è una sentenza che credo tocca qualche punto nevralgico, un nevralgico dei fondamenti costituzionali delle democrazie contemporanee. Tre sono sostanzialmente le domande che sui quali tornerò questo discorso. La croce sembra divide in qualche modo il costituzionalismo del nord dal costituzionalismo del sud in Europa, con titolativo. La croce divide la cultura laico-liberale da quella cristiano-sociale. Terza, la democrazia postmoderna quale croce ha da portare? C'è che vi spieghiamo, sicuramente bisogna spiegare sì, molto meglio. Perché il primo tema? Perché ovviamente la sentenza non è solo una, ai partecipanti italiani, spero che sia già conosciuto, ricordo solo che il punto di questo passo si è caricato incostituzionale per violazione della libertà di coscienza e di religione l'obbligo di esporre croci o crocifissi nelle aule scolastiche della scuola pubblica elementare, un obbligo stabilito parato da un regolamento dell'Land della Baviera, la cui costituzione, posso dare più avanti, garantisce peraltro che l'insegnamento nelle scuole pubbliche pubblica hanno come obiettivo, come Bildungsziel, la riverenza, cito, di Dio, il rispetto della convinzione religiosa e della dignità dell'uomo, articolo 131 del Costituzione bavarese, e c'è anche esplicitamente che questa istruzione deve basarsi sui principi delle confessioni cristiane, articolo 135 della Costituzione bavarese. Questo è il dato che secondo me devono sapere gli italiani. Ai partecipanti tedeschi invece occorre spiegare che la stessa questione del crocifisso è stata risolta in Italia non dalla Corte Costituzionale ma dall'ordinanza di un pretore e da un parere del Consiglio di Stato. Il crocifisso lo troviamo anche nella scuola italiana. Insieme al ricatto di Sua Maestà il Re, viene indicato come elemento di arredo delle scuole dai regolamenti dell'istruzione elementare media sin dal 1860. Passata tra le discipline era stata forse in parte disapplicata, peraltro, perché nel 1926 troviamo una circolare del Ministero della Pubblica Istruzione, ministro non è ben noto, no? Che aveva ordinato espressamente il ritorno del crocifisso in ogni aula secondo l'antica tradizione. Siamo nel 26, a 3 giorni di distanza si fa peraltro una circolare analoga per i tribunali. Ora, in Italia questo discorso è stato ripreso anche dopo l'entrata della Costituzione. Il Ministero della Pubblica Istruzione ha sempre ordinato di lasciare appesi questi crocifissi, finché nel 1986 qualcuno si è lamentato, si è sollevato una questione, ha detto un pretore chiedendo la rimozione del crocifisso, il pretore l'ha negato, ha negato che la rete possa essere rimosso se non nei casi, nei modi stabiliti dalla legge, dicevo, previsto dalla legge, non possiamo toccarlo, rigettando un provvedimento cautelare, richiesta di un provvedimento cautelare. Il Consiglio di Stato, invece, dopo la revisione del concordato catalanese, avvenuta nel 1984, ha dato un parere al Ministero della Pubblica Istruzione in cui nega che questa revisione del concordato possa aver abrogato la disciplina del concordato. In sostanza, nulla di nuovo si dice. Ma si aggiunge che la Costituzione, pur assicurando, qui cito, pari libertà a tutte le confessioni religiose, non prescrive alcun divieto alla esposizione nei pubblici uffici di un simbolo che, come quello del crocifisso, dei principi che evoca e dei quali si è già detto, fa parte del patrimonio storico. Ne ha d'altra parte, continua la citazione, che la presenza dell'immagine del crocifisso nell'aula scolastica possa costituire un motivo di costrizione della libertà individuale a manifestare le proprie convinzioni in materia religiosa. Tutto lì, 4 righe. Bisogna adesso ricordare sia ai tedeschi sia agli italiani che la soluzione, dalla soluzione italiana si è già discostata nel 1990 una sentenza del Tribunale Federale Svizzero che ha respinto il ricorso di un comune del Canton Ticino contro una sentenza contro un sciamistero amministrativo che a sua volta aveva annullato la decisione del comune di esporre il crocifisso nella propria scuola comunale. Secondo i giudici svizzeri, la libertà di coscienza è un diritto della persona fisica, non anche delle persone giuridiche pubbliche, e impone una neutralità, intesa non come indifferenza, neutralità non vuole indifferenza, ma intesa come rispetto della libertà dei cittadini in una società pluralista. L'ho avuto un po' lì per questa sentenza. E il crocifisso negli edifici pubblici potrebbe essere inteso come un tentativo di onorare la memoria delle basi cristiane dello Stato secolare, ma specialmente nel contesto dell'aula di una scuola pubblica potrebbe anche dare l'immagine di un'identificazione dello Stato con una religione della maggioranza, un effetto che implicherebbe un giudizio di disvalore nei confronti di altre religioni e convenzioni ateiste e religiose. Questa è un po' la, qui ho dato un po' più spazio alla motivazione, perché il passo dalla soluzione italiana verso quella tedesca, sentenza del Tribunale Federale di Losanna. Ovviamente ci si chiede come mai gli italiani decidono così e i tedeschi e gli svizzeri invece in un altro modo. Cioè, se una comparazione, si cerca di spiegare le differenze. Allora, ho trovato, almeno così, pensandoci poco, comunque ho trovato 3 ipotesi di spiegazione. Innanzitutto la cultura processuale. Cioè, la differenza sta nella tutela giurisdizionale dei diritti costituzionali, specialmente, si nota in questo, l'assenza di tale che costituzionali diretti contro atti regolamentari e sentenze di giudici comuni o amministrativi che violi quello che si chiama specifico, cioè strafasso, non stesso diritto costituzionale specifico. Tutto questo nei fori italiani non funziona, non esiste un foro che questo genere, pertanto magari le soluzioni sono italiane sono state diverse da quelle del tedesco. Cioè, questa non è stata portata davanti alla Corte Costituzionale, per pensare in prima selezione. Seconda, già più diversa, si potrebbe anche parlare di una differenza nell'interpretazione costituzionale. Nel caso della sentenza tedesca, anche di quella svizzera, si nota un'interpretazione basata su principi. Valorizzazione dei principi, dei valori, che devono essere in qualche modo anche massimizzati, mentre direi nel parere del Consiglio di Stato si nota l'argomentazione classica della Costituzione intesa come regole, modello di Costituzione che contiene solo, le cui norme contengono solo regole contenenti divieti di legislazione. Qui abbiamo un massimo esperto, è un po' un modello che segniamo, un ragionamento che segniamo. Terza differenza, possiamo portare il discorso avanti, quindi dal processo, il modo di interpretare il diritto costituzionale, poi questo di cultura generale. Potrebbe dire no, le differenze si vedono dalle differenze della cultura generale. Tale paese mediterraneo in cui domina il cattolicesimo romano, ma gli altri paesi sono paesi della Middle Europa in cui è venuto meno l'egemonia culturale del protestantesimo prussiano e siamo più secolarizzati. Qui ovviamente queste sono già differenze, sicuramente spiegazioni che possono avere un certo valore, ma credo poi divergenze fondamentali anche per questo che esiste veramente una costituzionale comune europea, questo vedrebbe. Senz'altro sono divergenze fondamentali, anche se poi non sono cose del tutto insopportabili, se accettiamo di vivere anche in Europa in un contesto multiculturale. Le nostre culture si differenziano. Credo però che il problema comune della legittimità costituzionale del crocifisso, obbligatorio nelle scuole elementari, fa sorgere interrogativi ulteriori, soprattutto sulla stabilità dei fondamenti dei diritti costituzionali comuni europei. Cioè, questi interrogativi traggono origine ovviamente da quel che le sentenze dicono e quel che non dicono, e dal modo in cui sono state percepite nelle rispettive società. Quel che dicono ha a che fare soprattutto con la libertà di coscienza, quelli per cui sono state percepite anche alla con la democrazia. La questione della costituzionalità del crocifisso, per addentrarci innanzitutto nella prima domanda, interessa non tanto la libertà negativa di non essere costretto a comportamenti rituali di culto, cioè libertà di culto, quanto proprio la libertà della coscienza, cioè quel diritto di habeas mentem velanimam, che compete con quello del habeas corpus per la primogenitura dei diritti fondamentali dell'Europa. Ricordiamocelo. Sappiamo che questo è, secondo me, un urgrundrecht, che ha una sua storia, dobbiamo ricordarci. Storia di trasformazione dei diritti di tolleranza dei gruppi confessionali sorti dalla Riforma in un diritto universale di libertà di coscienza di ogni individuo, una lenta trasformazione che si svolge nel contesto di una secolarizzazione della coscienza stessa. Si arriva fino a Kant e si costituzionalizza in qualche modo, però solo, nelle rivoluzioni statunitensi e francesi. Curiosità di libertà di coscienza non parlano esplicitamente né la Costituzione, la dichiarazione dell'89, né la Costituzione statunitense, però sia la giurisprudenza costituzionale americana sia quella francese lo riconoscono profondamente, per non parlare dell'Italia e Germania, cosa ovviamente è ancora molto più affermata, molto più facile da fare. O Cosa tutela questa libertà di coscienza? In qualche modo la libertà di coscienza stessa si è secolarizzata. Tutela, credo, e qui dobbiamo giungere forse a una definizione più ampia, i giudizi di valore e di senso compiuti dalla coscienza umana. E li tutela in due modi, innanzitutto nei loro fondamenti razionali di fede, coscienza con base della fede, ma anche come prodotti di un pensiero alla ricerca di verità razionali, di libertà di pensiero, ragione per la quale le indicazioni nazionali e internazionali dei diritti circondano le garanzie della coscienza da quella della libertà di religione e di pensiero, cornice. La libertà di coscienza, peraltro, tutela non solo semplicemente l'adesione positiva o il distacco negativo da una religione, ma le coscienze religiose allo stesso modo delle coscienze laiche, cioè la piena libertà, se vogliamo, qui possiamo dare anche il nome spirituale, Geistesfreiheit, di Congolostria, comunque. Perché dico questo? Questo è uno sviluppo maggiormente sentito nella dottrina tedesca che non nella dottrina italiana. Qui poi dottrina non solo costituzionalista ma anche cose complicate, perché abbiamo ecclesiasticisti che si occupano di questo tema. Allora, il crocifisso, in questo caso del crocifisso, perché ha a che fare con la libertà di coscienza? Noi in genere siamo abituati, specialmente in Italia, a parlare di libertà di coscienza quando parliamo della proliferazione delle obiezioni di coscienza. Non si tratta di un problema di obiezione di coscienza, come voleva farci credere il Bavarese adesso con la sua legge di risposta alla sentenza, perché non si cerca un'alternativa più mite in qualche modo all'obbligo scolastico, non c'è nulla da obiettare, da eccepire a un obbligo. Non si tratta di tutelare qualcuno dal dover agire o dover comunicare contro coscienza, ma di tutelare che cosa? La formazione stessa della coscienza. Si sposta l'accento dalla tutela dell'agire secondo coscienza sulla formazione della coscienza stessa, e questo vediamo un po' più avanti, è una tendenza che abbiamo nella dottrina e nella giurisprudenza costituzionale, non del tutto nuova, ma forse non ancora del tutto ben percepita. Il bene giuridico da tutelare dalla libertà di coscienza è proprio quella interiorità del forum interno, che va tutelata non solo indirettamente dal divieto della tortura inquisitoria e degli altri atti di violenza e manipolazione fisica, come aggiunge anche genetica, ma anche direttamente attraverso divieti di suggestioni, inganni della psiche, minacce di sanzioni pesanti anche solo sotto l'aspetto economico e sociale. Da questo punto di vista appare sicuramente troppo riduttivo il parere, seppur autorevole, del Consiglio di Stato italiano, secondo cui la presenza delle aule scolastiche non costituisce motivi di costrizione della libertà individuale di manifestare le proprie convinzioni in materia religiosa. E non si tratta appunto della libertà di comunicare i contenuti della propria coscienza umana, ma della libertà di formazione. Questo tema non è stato neanche sfiorato dal Consiglio di Stato. Si deve invece discutere sul peso che il crocifisso può avere nella formazione della coscienza dell'allievo. Discussione che, però se vediamo bene, viene in qualche modo ostacolata dal richiamo al principio di laicità dello Stato nella sentenza tedesca e in quella svizzera. Da discorsi in gergo italiano potremmo dire di par condicio. Non si arriva sul punto, né tanto bene, in certi passi della motivazione, sì. No, perché la Corte Costituzionale italiana parla del principio fondamentale della laicità. Esattamente, però il problema non è vedere lo Stato, il problema è vedere qual è il bene giuridico che effettivamente va tutelato. Il ricorrente tedesco aveva in effetti lamentato che l'immagine di un corpo umano morente avesse una funzione educativa contraria alle concezioni educative della dottrina antroposofica di Rudolf Steiner, loro condivisa. La motivazione della sentenza parla di un semplice effetto di appello della croce che, cito, qualifica i contenuti di fede da esso simbolizzati come modello e degni di essere seguiti. C'è un appello di Erkunk, l'appello del simbolo è un appello non solo delle confessioni religiose interessate semplicemente trasmesso dallo Stato, come munzius, cioè oggetto di identificazione tra Stato e contenuti di fede, ma si accorge di dire qualcosa di più, dice un condizionamento mentale va in flusso nei confronti di soggetti particolarmente suscettibili ai condizionamenti che devono ancora, soggetti che devono ancora imparare la capacità di critica, e la formazione di punti di vista e coscienza, punti individuali. Cosa dicono i giudici senzienti? L'interferenza psichica, la psichische Beeinträchtigung, il peso mentale, la mentale belastung che gli alieni non cristiani devono tollerare in seguito all'esposizione forzata della croce durante l'insegnamento, ha soltanto un peso relativamente esiguo. L'unica frase che troviamo da parte dei giudici sententi. E pertanto il bilanciamento del legislatore regionale che appunto ha deciso di lasciare la croce sarebbe ineccepibile sempre secondo i giudici dissenzienti. Ora, perché espongo questo? È chiaro che non possiamo giudicare le sentenze se non accettiamo di discutere sulla ragionevolezza o meno dei bilanciamenti del legislatore. Secondo me la discussione su queste sentenze ha senso soltanto se si accetta effettivamente che qui c'è un problema di terapia, cioè se cerchiamo almeno di addentrarci un pochino nel discorso dei valori. La verifica della ragionevolezza dei bilanciamenti dei beni costituzionali da parte del legislatore deve tener conto innanzitutto del fatto che la libertà di formazione, la coscienza è un bene tutelato esplicitamente nella Costituzione tedesca, o presupposto della Costituzione, come si dice nel corso costituzionale, come gli americani sostengono anche la dottrina americana di Richards, tipo un duarchignano background right, senza limite, questo è il punto, è un diritto senza limiti e quindi almeno prima facce prioritario rispetto ad altri beni costituzionalmente protetti. Cosa significa questa preferenza? Si potrebbe già dire qui c'è una gerarchia e chiuso il discorso, hanno vinto, forse così non è. La preferenza significa innanzitutto uno spostamento a carico del legislatore dell'onere di argomentazione. Le sue scelte devono giustificarsi con bilanciamenti particolarmente accurati nei quali le posizioni delle coscienze possono pretendere di valere, ecco, non so come tradurre il termine duarchiano dei Trumps, dei Trump, briscole, in ogni caso. La compressione dei diritti di formazione di una coscienza individuale del fanciullo e i diritti dei genitori di istruire e educare la coscienza dei propri figli, queste sono le posizioni da una parte del piatto, deve essere necessaria alla realizzazione di altri diritti ben costituzionalmente potenti e, nella misura del possibile, minimizzata. Questo è un po' un riassunto di quel che si dovrebbe fare se si volesse fare un bilanciamento, una verifica della ragionevolezza dei bilanciamenti dei beni dei valori da parte del legislatore. E qui c'è tutto il discorso, cosa troviamo sui piatti della bilancia? Non so se abbiamo il tempo per andare dentro. Quanto costa effettivamente, quanti costi comporta l'esposizione della croce per la libera formazione della coscienza del fanciullo? Quali beni costituzionali ne traggono beneficio? La risposta non è facile e credo che il dibattito sia stato ben aperto. Anche detto che coloro che alzano la voce, che hanno alzato la voce, spesso la alzano non per discutere, e questo è molto specifico. Vediamo, quanto ai costi, la sentenza non precisa in che cosa consiste il condizionamento mentale, a mental Beeinflussung. Non argomenta bene. Non si pone il problema di istruire le interpretazioni possibili del simbolo. Ecco che bisogna interpretare il simbolo per sapere quali, come pesa sulla coscienza da parte di un fanciullo che non riceve un'istruzione religiosa cristiana. E queste sono la categoria, diciamo, qui debole, toccata. L'associazione della croce, ecco, direi che la croce viene associata innanzitutto con la morte. In questo erano ragioni ricorrenti. Non viene sollecitato soltanto dall'immagine della persona morta o morente di Gesù, ma anche dall'uso, poi lì ci sono ovviamente le associazioni, che poi in Germania sono forse diverse anche in Italia, molto diffuso l'uso della Germania protestante, delle croci, nei cimiteri pubblici, nel fatto che la croce non è solo non è così diffusa la signatio crucis quotidiana in pubblica, lì ci sono tutte contestualità, ma secondo me da ricostruire. C'è un accenno nella sentenza comunque a questo, nell'opinione di Senzente. Si tratta quindi non soltanto, si può dire, di un appello a credere nella salvezza, ma anche di un discorso sulla morte. Questo è quello che si dovrebbe dire. La croce impone un discorso sulla morte che da qualcuno potrebbe appunto essere interpretato come interrogazione della coscienza sul senso che hanno morte e vita. Interrogazione pesante, le cui domande possono causare timori, specialmente quando vengono staccate dalle risposte della fede. Questo, secondo me, è quello che pesa. Questo elemento di turbamento si aggiunge quello di eventuali errori. Ecco, qui c'è un elemento di minaccia, di turbamento, che a quello si aggiunge quello di eventuali errori e confusioni che potrebbero condizionare i giudizi del fanciullo. Ecco, c'è una sorta di discorso non chiaro nel simbolo, confusione. Non vi è dubbio che una persona matura sa distinguere stato e religione, ma la croce nell'alma non rischia di suggerire al fanciullo che l'insegnamento della scuola e quello della chiesa rivelino la stessa verità? Non esiste che il pericolo che il bambino possa identificare il potere temporale con quello spirituale o confondere addirittura un marchio culturale della sua scuola con quello politico, ecco, con quello politico del partito cristiano che governa oramai la generazione in Land. Tutto questo non viene tematizzato. La croce, ovviamente, il discorso che non piace tematizzare è il giudice costituzionale. La croce nell'aula scolastica significa solo ai cristiani che non vi può essere scienza e studio senza la coscienza giusta? O intendi insegnare questa verità anche a chi non ha ancora chiarito i propri sentimenti verso la religione? Sono tutte domande, non so dare risposte chiare, ma sono tutti. La croce nella scuola non rischia di suggerire oggi un'unità religiosa in una società che sta invece sviluppando forme di multiculturalità? Peggio, non intende dire anche che le altre religioni siano errate semplicemente da tollerare anziché da riconoscere liberamente e da commuovere come quelle cristiane? Ecco, qui il punto del simbolo, il pericolo del simbolo è quello di generare confusione, di essere uno strumento di inganno. La coscienza deve essere tutelata contro gli inganni. Cos'è c'è sull'altro piano della bilancia? Non vi è tanto la libertà religiosa positiva, come sostengono i giudici dissenzienti, perché non si vede l'esposizione di una croce o di uno shador da parte degli stessi alunni o insegnanti. L'esposizione del crocifisso certamente non gode di una garanzia costituzionale propria, simile a quella della bandiera o delle festività. Si tratta di un semplice fatto amministrativo collegato a quei servizi attraverso i quali lo Stato, in Germania i Länder, assolvono il loro compito costituzionale di impartire un'istruzione pubblica a chi non intende avvalersi di quella privata. Questo fatto, tuttavia, non è solo amministrativo, ma ovviamente anche politico. Più precisamente, siccome il crocifisso non è semplice materiale di studio per l'insegnamento della religione, lo Stato intenderebbe attraverso il crocifisso educare una coscienza morale verso determinati valori sociali e culturali. Ecco, la croce simbolizzerebbe, come hanno sostenuto anche qui in Italia nel dibattito dell'88 Civita Cattolica, tutto il peso della sofferenza umana. E promuoverebbe non solo l'idea ecumenica della pace religiosa tra le diverse religioni cristiane, ma anche una qualche forma di tolleranza tra convinzioni religiose e laiche. Sì, anche la tolleranza, perché impedisce agli atei di portare avanti un discorso che tenda all'eliminazione dell'avversario spirituale. A questo proposito, chiaramente io non posso tacere i miei dubbi se veramente, nonostante l'esperienza delle crociate, l'uso statale della croce e del crocifisso sia davvero idoneo non solo a unire le diverse religioni cristiane tra di loro, ma anche a promuovere la tolleranza nei confronti dello stesso cristianesimo, contesto fondamentalismo. D'altra parte, di fronte alle esperienze fondamentaliste di altre religioni, contrarie alla secolarizzazione, la conservazione della croce potrebbe avere ancora un altro significato, potrebbe essere interpretato come difesa simbolica della religione e attraverso questo anche della stessa sicurezza dello Stato. Addirittura i francesi potrebbero affermare qualcosa in questo genere in questi giorni. Se si prescinde dalla problematica della tutela penale della pace religiosa, la Costituzione non offre altri strumenti per promuovere la tolleranza. Anche questo è un problema. Quali sono gli strumenti che ha lo Stato per promuovere la tolleranza nei confronti del cristianesimo? Dato che lo stesso insegnamento religioso è organizzato in cooperazione tra Stato e Chiesa, che pertanto fa l'obiettivo. Quali strumenti ha lo Stato per promuovere la tolleranza? Quindi vi sono certi aspetti sull'alto piano della bilancia, aspetti di promozione e difesa di valori sociali e culturali garantiti anche dalla Costituzione. E poi ovviamente c'è quello su cui hanno fatto peso, su cui si sono lanciati i difensori, il peso della conservazione del patrimonio storico. L'esposizione del crocifisso significa in effetti la rappresentazione del simbolo di una particolare tradizione culturale, appresta una tutela simbolica, si potrebbe dire, ai diritti, alla memoria della cultura delle generazioni passate. Una società di progressiva secolarizzazione, non credo che sia l'esposizione della croce possa essere, dal mondo, essere considerato uno strumento di prevenzione culturale contro, ecco, l'azzeramento dei contesti e delle proprie basi storico-culturali. Credo che questi siano ragioni ovviamente di natura politica che vanno prese sul serio. Questi pochi cenni devono bastare per dimostrare come la verifica dei costi e benefici culturali del crocifisso risulti tutt'altro che facile, e come dipende soprattutto in ultima analisi dall'interpretazione di un simbolo necessariamente privato, perché è un simbolo, dal contesto però poi anche culturale in cui queste ultime si svolgono, e dai margini di discrezionalità che si intendono concedere alla politica culturale dello Stato. Chiamo sempre, dal punto di vista laico-liberale, dietro allo Stato una politica culturale, perché dico, semmai è la cultura che può fare la politica, in termini bobbiani, arrivo a un'interpretazione della Costituzione diversa, lascio meno margini di spazio a questo uso politico dei propri simboli da parte dello Stato. E quindi lascio un po' deluso perché io non do una soluzione. Credo che il merito delle sentenze svizzere tedesche è senz'altro quello però di aver contribuito alla sensibilizzazione per il valore costituzionale della formazione della coscienza. Ecco, in questo io condivido pienamente questa sentenza, specialmente per i minori. I pericoli di interferire nella libertà di formazione dei giudizi di senso e di valore con informazioni false, emozioni pilotate, sono particolarmente gravi quando si impongono simboli a chi non ha ancora maturato la capacità di dare interpretazioni proprie. Le immagini dei simboli, e aggiungerei anche quelli che corrono insieme alle voci, hanno una maggiore forza di penetrazione della coscienza rispetto ai testi di chi impara a leggere e scrivere. E qui si potrebbe, dal punto di vista dei storici, parlare molto sul problema del sola scrittura, del rifiuto dell'immagine, delle guerre sull'immagine. Vabbè, comunque, non abbiamo il tempo. Se i pericoli per la formazione della coscienza del minore provengono piuttosto da un simbolo come la croce o la stella, o ad esempio dalla somministrazione di immagini pubblicitarie radio-televisive, non era ovviamente il tema di Cidengo, ne lo accenno solo perché quello che la Corte ha detto qui potrebbe un domani essere molto importante per risolvere questioni di legittimità costituzionale dell'ammissibilità di pubblicità radio-televisiva nei confronti di minori. Non vi può essere dubbio, credo, a prescindere dal problema se si possa dedurre o no dalla Costituzione un obbligo dello Stato di intervenire a garanzia della libera formazione della coscienza contro nuovi eventi pericoli, Schutzpflicht. Non vi può essere dubbio che laddove egli stesso produce simboli e organizza la televisione, aggiungere anche qui, il controllo dei giudici costituzionali sulla ragionevolezza delle sue decisioni deve essere il più incisivo possibile. E sotto questo punto di vista credo che sia comunque comprensibile e difensibile questa sentenza del Corte Costituzionale tedesco e svizzera. Questo non vuole significare prendere posizione del tutto contro la soluzione italiana. Credo che anche il parere italiano ha un suo merito. Innanzitutto, non ho riferito, ha sottratto tutta la questione alla disciplina concordataria, riconoscendo quindi allo il potere politico di decidere esso stesso come usare i simboli come beni del proprio patrimonio storico, come gestire il proprio patrimonio storico. Poi la questione dell'effettivo utilizzo del crocifisso nelle aule scolastiche italiane, credo, non è ancora decisa, perché abbiamo solo la sentenza di un pretore, può essere in futuro anche completamente riaperta la questione delle autonomie che si danno agli istituti scolastici, e poi gli interessi dei non cristiani possono anche trovare, secondo me, ancora una qualche tutela amministrativa o giudiziaria, e anche su questo non abbiamo ancora un giudicato effettivo. Ora, questi sono problemi giuridici applicativi, molto delicati. Credo che questa sentenza effettivamente apre un cielo giuridico e ci fa toccare problemi delicatissimi. Vorrei però aggiungere un'altra cosa e venire quindi al punto che deve dare una risposta in qualche modo a se la croce divide la cultura costituzionale del nord da quella del sud. Secondo me non lo deve necessariamente, anche perché esistono spazi per soluzioni pratiche. E anche se poi le differenze continuano a esistere, sono differenze culturali. L'altra questione più pesante, e per quello l'ho intitolata anche la forza della democrazia, io dissento dal voto dissenziente della sentenza tedesca nella misura in cui ignora o addirittura nega implicitamente la possibilità di interpretazioni laiche del crocifisso. La croce si può interpretare anche da laici. Da un punto di vista laico, se vogliamo, la crocifissione cos'è? diciamo gli storici, costituisce l'esecuzione di una pena di morte per schiavi e rivoluzionari. È una pena di morte speciale, usata non solo dall'impero romano, ma riferito anche dall'impero persiano e dall'Alessandrino, previsto da documenti ebraici del tipo di Qumran. Mi sono documentato. Il laico non deve affatto identificarsi con lo scetticismo o il relativismo di un Pilato che allora usò la croce per conservare il proprio potere, anzi, e che oggi potrebbe sbarazzarsene per festeggiare il compimento della secolarizzazione. Credo che l'arco occidentale, non solo lui, non è fatto un essere inanimato senza una coscienza. La coscienza dell'arco è una coscienza critica, civile. Per lui la croce può essere la memoria dell'origine storica dei principali diritti fondamentali dell'uomo: il diritto di vita negato dalla pena di morte, la libertà di coscienza del martire, la dignità sociale dello schiavo per cui era riservato questo trattamento, la libertà politica di un eletto, anche se eletto re. Il crocifisso quindi potrebbe anche diventare, avere un'interpretazione laica, un monumento alla difesa culturale degli stessi diritti fondamentali violati da chi? Non solo da Pilato e dal Sinedrio, ma dal popolo, da una massa psicologica che ha scelto Gesù e non vorrà mai. Una massa indisponibile a ogni discussione ragionevole delle decisioni da prendere. Questa lettura, un po' sicuramente un po' avventurata, si potrebbe chiaramente replicare che difficilmente lo stesso simbolo può essere interpretato come simbolo di una fede religiosa e come simbolo di una ragione laica. Proprio in questa convivenza delle culture di matrice laica e religiosa sta in effetti uno, se non il problema fondamentale dei diritti fondamentali in Europa. E le divergenze tra queste culture si riflettono non soltanto nelle diverse concezioni sul primato dei diritti di libertà e dei diritti sociali, ma anche la stessa libertà di coscienza è altamente controversa. Da un lato si parla di libertà della coscienza oggettiva, oggettivandone una verità, dall'altro di libertà di coscienza, soggettivandola l'eruzione della, ecco come dice Luhmann leggendo Heidegger, comunque Heidegger selbst. Da un lato la si intende come elemento della libertà religiosa, Schoenberg, dall'altro lato come elemento della libertà del pensiero, più parito. Da un lato si intende a trasformarla nella scelta di adesione, a partecipare, di aderire, di partecipare all'esercizio della libertà collettiva del gruppo religioso, inassorbita dal diritto del gruppo. Dall'altro lato si tende a stilizzarla come Ausnahme Zustand individuale, privo di qualsiasi dimensione sociale. Da un lato si parla di libertà di azione, di agire secondo la coscienza, di missione, di convincere gli altri di una coscienza formata, dall'altro si mette l'accento sulla libertà di formazione della coscienza. Questo è uno dei diritti tra i più controversi, più plasmati, più gommosi che esistono. E la materia del contendere è destinata, secondo me, non è cessata. Non è cessata. Diciamo perché è attuale dopo il crollo del muro. Basta guardare le controversie sullo Ethikunterricht nei nuovi Länder orientali e basta leggere un testo con la lettura del quale vuoi finire, che nega qualsiasi funzione creatrice della coscienza morale individuale. Un testo che è stato fortemente influenzato da un cardinale tedesco, no? Che dice: in alcuni correnti del pensiero moderno si è giunti a esaltare la libertà al punto da farne un assoluto che sarebbe la sorgente dei valori, vi fa riferimento alla libertà di coscienza. Si sono attribuite alla coscienza individuale le prerogative di un'istanza suprema del giudizio morale che decide categoricamente e infallibilmente del bene e del male. L'affermazione del dovere di seguire la propria coscienza si è indebitamente aggiunta l'affermazione che il giudizio morale è vero per il fatto stesso che proviene dalla coscienza, ma in tal modo l'imprescindibile esigenza di verità è scomparsa in favore di un criterio di sincerità e autenticità di accordo con se stessi, tanto che si è giunti a una concezione radicalmente soggettivistica del giudizio morale. Proprio in stesso documento ha un capitolo che si intitola "Perché non venga resa vana la croce di Cristo?". Proprio in Gesù crocifisso, questo documento, mi sono dimenticato di dire la Splendor Veritatis, la Chiesa trova la risposta alla domanda circa il senso delle libertà, ascoltate, universali. Il riconoscimento onesto e aperto della verità è condizione di autentica libertà. Spero subito, altra citazione. Dopo la caduta in molti paesi delle ideologie che legavano la politica a una concezione totalitaria del mondo, e prima fra essi il marxismo, si profila oggi un rischio non meno grave per la negazione dei fondamentali diritti della persona umana e per il riassorbimento nella politica della stessa domanda religiosa che abita nel cuore di ogni essere umano. È il rischio dell'alleanza tra democrazia e relativismo etico, che è un peccato di questo, che toglie alla convivenza civile ogni sicuro punto di riferimento morale e la priva più radicalmente del riconoscimento della verità. Dalla critica del relativismo etico, la via della democrazia, tuttavia, non porta all'assolutismo di una verità trionfante, perché condivisa dalla maggioranza. Lo stesso crocifisso ammonisce che vox populi non è vox dei. Qui non è tanto originale, perché Gustavo Zagreb ha scritto tutto il suo libretto, che una democrazia deve basarsi sulle virtù della mitezza, non solo deve tollerare il dubbio, ma anche proteggerlo contro chi lo considera una malattia, tema molto, molto attuale, cioè solo di ieri. E vengo alla conclusione, spero di non aver preso troppo tempo. La sentenza tedesca sul crocifisso è stata letta come espressione di un filone giurisprudenziale nuovo che la unisce sia con la sentenza sulla citazione di Tucholsky, soldati sono assassini, sia con la sentenza sulla non punibilità di blocchi stradali a fini di manifestazioni pacifiste. In tutti questi casi tedeschi, certamente, se si vuole si potrebbe anche aggiungere il caso dell'aborto, si nota una certa rivalutazione dei diritti della coscienza, che entrano riscontrabile peraltro anche nella recente giurisprudenza italiana. Basta pensare obiezioni di coscienza del servizio militare, la recente sentenza sul giuramento, ma anche qualche accenno nelle sentenze sull'assetto radio televisivo, sul pluralismo. I diritti della coscienza vengono, secondo me, in queste sentenze concepite come una sorta di garanzia che vi sia una formazione di valori, una Wertbildungsgarantie. si sente qui una preoccupazione dei grundwert della democrazia, proprio un momento in cui i partiti politici non riescono più a produrre quello che Hegel chiama il Orientierungswert. Poi ci hanno messo pure la parola, siamo in una sorta di democrazia, il Wert Fieber, la febbre dei suoi dolori. C'è un momento forse di forte debolezza della democrazia, che debolezza che proviene dalla debolezza programmatica dei partiti di destra e sinistra, che non hanno più programmi. Esagero fortemente, però credo che sia non un caso che attualmente in Italia un governo abbia un forte successo per il fatto che aveva avuto un piccolissimo programma. La democrazia quindi è in una situazione critica, questo ritorno a questi temi della coscienza coincide con un momento di difficoltà di una democrazia sicuramente più accentuata in Italia, con un passaggio maggioritario che in Germania. Qualcuno parla di democrazia senza qualità, qualcuno ha delle visioni apocalittiche. Quando morirà la democrazia non lo sappiamo, ma forse la morte è vicina. Sicuramente in questi casi sulla libertà di coscienza però fanno anche vedere che almeno per ora la democrazia, in questo possiamo dirla forse postmoderna, è ancora alla ricerca di una sua etica minima, etica costituzionale minima, termine di slogan credo che sia molto utile qui. E questa etica però poi è un'etica credo che hanno in comune le democrazie contemporanee, occidentali non solo, europee credo di sì, basato secondo me essenzialmente su due valori, principi di base, appunto la libertà spirituale, libertà di coscienza individuale, la massima, la summa del Grundrechtsindividualismo, che ovviamente va contemperata da solo, credo che non ce la fa, dal principio del pluralismo. E secondo me questo è anche, sono i due valori sul quale, dai quali, entro i quali bisogna stabilire un ordine che si adegui alle esigenze di un paese, di ogni nazione. Bisogna trovare il giusto mezzo tra individualismo e comunitarismo, in termini generali. Credo che sia un po' questa la situazione, se volete, la coce dell'attuale democrazia. Ringraziamo molto Piero Gunther per questa sua relazione così densa di interrogativi, molto e fortemente problematica, sia ricordo alcuni punti insomma per un eventuale dibattito, la riflessione sulla libertà di coscienza, la libertà della formazione della coscienza, libertà di formazione, ecco, da una parte. Dall'altra questa sua interrogazione proprio sulla necessità di superare il relativismo etico, che è stato invece al centro della rappresentazione della democrazia nell'opera che è segnata, che è stata la dipinta dai tedeschi, fa di Gesù intollerante, perché appunto crede nella verità assoluta. La lettura che ci fa Luther ci propone una possibile interpretazione laica della croce. Ecco, interpretazione laica della croce. E ci pone l'esigenza di andare oltre con il relativismo etico per trovare un contenuto minimo etico della democrazia. E questo secondo me è un elemento estremamente stimolante. Infine questa sua interrogazione sui contenuti di una libertà di coscienza religiosa, laica, che rinviano in qualche modo proprio alle radici della cultura occidentale dei diritti, cioè i processi di secolarizzazione dalla prima matrice religiosa alla graduale secolarizzazione. Ecco, sono interrogativi estremamente densi che la discussione potrà permetterci di risolvere, forse, no? Di risolvere.